Check one, two, mic check, one, two, mic check, one, two, mic. Microphone check, check, one, two. Sound check, il suono della musica. Di Gegé Telesforo. Eccoci pronti dal Groove Mastery Studio per il soundcheck, addirittura puntata numero 290, quella di questa sera, qui su Radio 24. Buonasera a tutti voi da Gegé Telesforo e buonasera alla nostra Silvia Barba. Buonasera a te e a tutti voi. La nostra Silvia sta facendo il pieno di musica in queste settimane. Sono così contenta e così entusiasta, ma non solo io, ma anche tutti gli ascoltatori che ci scrivono e che ci fanno i complimenti per le nostre selezioni. E allora li ringrazio anch'io, tutti gli amici che scrivono all'indirizzo di posta elettronica soundcheck@radio24.it, che sono in contatto con noi utilizzando anche gli altri social network, da Twitter alla pagina a Facebook. Quindi ricordiamo che anche su Twitter noi poi pubblichiamo le scalette con tutti i brani in airplay nel corso delle nostre puntate, e dovrebbero essere attivi anche i podcast, quindi il podcast di questa puntata lo ritroverete nella pagina del soundcheck di Radio 24 a partire credo proprio da lunedì. Allora diamo il via alla puntata di oggi, puntata tematica come spesso facciamo, stimolati. Aspetta che prendo il libro, un attimo solo che l'ho messo lì. È un libro molto corposo, un volume pieno di roba, di fotografie, sì, di notizie. Ecco, si può sfogliare soltanto utilizzando tutte e due le mani. È proprio un librone intitolato La Disco, storia illustrata della disco music, libro curato con interviste, anche un'intervista esclusiva a Giorgio Moroder, che è uno dei campioni del mondo di disco music, libro scritto da Andrea Angeli Bufalini e Giovanni Savastano, due amici che hanno due storie diverse. Il primo è stato anche un funzionario della RAI, grande appassionato di radio, voce della radio italiana. Giovanni Savastano invece appassionato di musica, ma che nella vita fa altro. Fa lo psicoterapeuta, insegna anche psicologia e filosofia all'università. Hai capito? Hai capito. Allora, i due amici li incontreremo per farci raccontare come mai hanno scritto un libro così anche interessante, no? Con bellissime fotografie e con tutte le storie legate ai vari artisti protagonisti del periodo della disco music. Periodo che ha un inizio, insomma stiamo parlando dell'inizio degli anni 70, quindi potremmo utilizzare proprio la composizione scritta da Isaac Hayes, ovvero il tema portante del film poliziesco Shaft del 1971, come il brano che ha aperto le danze. Il brano che ha aperto le danze e che ha anche fatto vincere un Oscar ad Isaac Hayes come appunto miglior canzone originale, ed è il primo compositore nero a vincere l'Oscar. Ecco, Isaac Hayes infatti apre anche la puntata di questa sera dedicata alla disco music. Allora vorrei subito precisare che io l'ho vissuto quel periodo, cioè nel 71 avevo 10 anni, però poi a 14-15 anni ho iniziato a sgambettare anch'io, ti sembrerà strano, quanto ci credo. Mi portassi poi alle feste anche i miei dischi preferiti, che erano i vinili che prendevo dalla discoteca personale di papà, e quindi pensavo che nelle feste si potessero suonare anche Charlie Parker e Duke Ellington ed è per questo che ho iniziato a rimorchiare le ragazze molto tardi rispetto ai miei coetanei, ma avevo i miei gusti in fatto di disco music, quindi la musica che noi suoneremo nella puntata di oggi è tutta selezionata personalmente. Ho fatto una selezione ieri andandomi a ricordare tutti i brani che in qualche modo musicalmente erano adeguati alla mia personalità e di qualità, devo dire. Quindi non ascolterete Giorgio Moroder, anche se anche lui è un campione del mondo di disco music, né Cerrone. Mai sentito parlare di Cerrone? Cerrone mi manca. Ecco, dopo Giorgio Moroder c'era Cerrone, ma loro non li ascolteremo. Andiamo con Isaac Hayes e Shaft qui al soundcheck di Radio 24. Isaac Hayes con il tema portante del film Shaft, brano che fece vincere al nostro l'Oscar per la musica come miglior brano originale, esatto, no? Esatto. Nel 1972, credo, perché il brano fu scritto nel 71, pubblicato nel 71, quindi l'anno successivo. Perché? Perché oggi, lo ricordo, parliamo proprio della disco music, o perlomeno la musica che io ballavo nelle discoteche quando ero ragazzetto, e quindi non non quella becera, lo voglio dire, ci tengo molto, anche perché poi in quel periodo c'era veramente tanta musica buona. Non parliamo del jazz, perché il jazz era già all'avanguardia, c'era il free jazz, quindi cose che a quest'ora, se le dovessi passare, ci caccerebbero subito da Radio 24 e faremmo accapponare la pelle agli amici che ci stanno ascoltando magari in macchina. Però c'era tanta musica che veniva anche dal versante pop e dal versante rock pop. È uno dei brani che comunque mi muoveva nel periodo della disco. Non è un brano tipico della disco music, ma un brano che poi è stato riproposto in varie salse e che ha detto la sua. È tra l'altro una band bianca eccezionale. Si suona ancora questo brano? Infatti il brano è Long Train Running e loro sono i meravigliosi Doobie Brothers. Quindi dal 71 con Shaft passiamo al 1973. Soundcheck, il suono della musica. Eh sì, hai ragione Silvia, me lo dicevi, la voce di Barry White ne ha fatte innamorare di donne, soprattutto ha fatto accoppiare un sacco di gente. Barry White al soundcheck di Radio 24, 1974, You're the First, the Last, My Everything, uno dei suoi più grandi successi con la Love Unlimited Orchestra, questo l'organico messo su da Barry White che proponeva spettacoli in tutto il mondo con grandissimo successo. Uomo di grandi dimensioni, così come la sua voce che resta inimitabile. Barry White, protagonista del soundcheck, puntata dedicata alla disco. Fra i brani che io ballavo quando ero ragazzino, stiamo parlando, che cos'è, 1978, quindi avevo 17 anni, quello proposto da una formidabile vocalist che poi diventò anche protagonista di un altro brano di successo dei Toto, Georgie Porgy, la voce bellissima di Cheryl Lynn, che ebbe il suo momento di gloria con Got to Be Real. Lo ricordi questo brano? Lo ricordo, molto bello, e ricordo, ahimè, anche la versione, diciamo, poi post, quella un po' più caraibica, che purtroppo ha tratto il groove iniziale, un po' la melodia iniziale, per farne El Tiburón. El Tiburón, hai ragione! Sì. Allora, Cheryl Lynn al soundcheck con Got to Be Real. Soundcheck. Il suono della musica. Beh, te l'ho detto che io passavo questa sera la musica che io ballavo nel periodo della disco music, e quindi se c'era la disco music becera, come c'è musica becera in ogni periodo, io apprezzavo gli Earth, Wind & Fire, una delle mie band preferite, band creata da un grandissimo musicista, Maurice White, che mise su un organico di musicisti che provenivano dal jazz, ma con la passione del funk e dell'R&B. Tra l'altro Maurice White aveva suonato nel trio di Ramsey Lewis, il pianista, e gli era anche capitato di suonare con John Coltrane. In un momento fece alcuni concerti con John Coltrane quando Elvin Jones si assentò. Quindi pensate alla preparazione di Maurice White, batterista, ma anche una delle voci più belle della black music di tutti i tempi. Earth, Wind & Fire con September. Siamo al 1978, un anno importantissimo. Got to Be Real con Cheryl Lynn, September con gli Earth, Wind & Fire, ma c'era anche un altro musicista che veniva dal jazz, il vibrafonista Roy Ayers. L'hai mai visto dal vivo? No, non l'ho visto dal vivo, ma Pharrell Williams, che voglio dire a oggi è uno dei masters ormai, no? Del genere, e anche lo cita spesso come uno dei suoi ispiratori. Certo, perché Roy Ayers è considerato il padre del New Soul. Ma perché è stato uno dei protagonisti del soul jazz, quindi stiamo parlando del 1978. Questo signore si chiama Roy Ayers, il brano è favoloso. Tra l'altro credo che insieme a George Benson Roy Ayers sia stato il primo a proporre lo scat, doppiando in questo caso il suo vibrafono, che era poi il suo strumento, e invece George Benson lo faceva con la chitarra. Eccolo qui, Roy Ayers, il brano è favoloso, quante volte l'ho cantato, bellissimo, ballato, imparato il solo a memoria. Can't You See Me, Roy Ayers. Poi facciamo una pausa perché arriva l'informazione di Radio 24, pronti per accogliere Andrea Angeli Bufalini e Giovanni Savastano per questo libro intitolato La Disco. Soundcheck, yes. Il suono della musica. Eccoci pronti per la seconda parte del soundcheck di questa sera, sempre qui su Radio 24, sempre qui per parlarvi questa sera della disco, anzi per parlarvi a questo punto del libro intitolato La Disco, storia illustrata della disco music, libro scritto a quattro mani come da bravi pianisti, da Andrea Angeli Bufalini e Giovanni Savastano, che ringrazio per la partecipazione. Buonasera e benvenuti. Buonasera a te GG e grazie a te per averci invitato. Allora, buonasera. Allora intanto vi potete anche avvicinare un pelo al microfono per raccontarci come mai avete scritto un libro dedicato alla disco music, che a questo punto dovrebbe essere, vado per deduzione, una delle vostre passioni. Esattamente, è una passione giovanile, una passione adolescenziale e generazionale, come dicevamo prima fuori dai microfoni, che non è mai cessata, che abbiamo portato avanti negli anni e che è cresciuta dentro di noi e fuori di noi, perché poi la disco music è praticamente ovunque. In realtà è un fenomeno musicale che è più di un fenomeno musicale, nel senso che si è diramata talmente tanto nella musica con la M maiuscola che non può essere confinata poi solo ad un genere. Grazie appunto alla policromia di suoni e alla diversificazione proprio di elementi che la compongono. Ecco, scusami, la cosa che mi è piaciuta del libro è che non si racconta solo il periodo storico con gli aneddoti e i protagonisti, ma si racconta anche uno spaccato proprio del sociale. Si analizza attraverso la musica un periodo storico importante, questo ce lo direte voi, molto interessante, però credo soprattutto per le nuove generazioni che non lo hanno vissuto. Sì, quello degli anni 70 praticamente, ecco. Che in Italia poi dal punto di vista sociale e anche politico è stato un periodo non facile di confronto, anche conflittuale, anche nella musica. Difatti anche a me è una musica che appassionava all'epoca e mi piaceva sia la disco music che il rock, ed era un po' una pecora strana, nera, né bianca né nera, perché in classe mi ricordo all'epoca da adolescente non si poteva, cioè o ti piaceva la disco music o ti piaceva il rock. A me piacevano entrambe, e però c'era un conflitto forte che noi abbiamo tentato di riassumere nel libro, per esempio con le lettere della rivista famosa Ciao 2001, dove i lettori, che erano accaniti rock fans, protestavano con una linea editoriale del giornale che cominciava ad aprire ai primi artisti neri come Gloria Gaynor e Barry White, mettendoli in copertina quando in tempi non sospetti ancora non si parlava di disco, ma si respirava un qualcosa di diverso che non era sempre coerente con i gusti dei lettori di quella rivista. Ecco, sì, perché voi raccontate la disco sotto vari punti di vista, raccontate vari artisti, per esempio io prima ho citato anche Cerrone, artista che noi non suoneremo questa sera perché io ho operato le mie scelte. Ho analizzato il periodo storico proponendo per questa sera gli artisti che io ballavo in discoteca in quel periodo, e quindi sempre quella disco venata più di soul, ma anche come nel caso di Roy Ayers che ho passato prima, di improvvisazione jazz. Ma hai fatto bene, perché poi tra l'altro, come dicevamo prima, la disco non ha solo una caratteristica. La disco nasce black principalmente, non dimentichiamocelo, nasce dalle radici del jazz, del funk, del rhythm and blues e di tutta la tradizione nera. Una delle primissime disco, come le chiamiamo noi, ante litteram, era il Savoy Ballroom di New York. Sì, con una piccola differenza che c'erano le orchestre di Count Basie e Duke Ellington che suonavano dal vivo, e invece nelle discoteche si suonava il vinile. È un vinile che allora ebbe un successo clamoroso, quindi restiamo al 1979, fu quello prodotto da Quincy Jones per un giovane artista che aveva lasciato la famiglia per mettersi in proprio e diventare un solista. Quindi Michael Jackson con Don't Stop Till You Get Enough qui al Soundcheck di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica. Un anno importante, 1979, sì, Michael Jackson con Off the Wall, prodotto da Quincy Jones, ma anche la band guidata da Nile Rodgers e Bernard Edwards, Nile Rodgers, eccellente chitarrista, band chiamata Chic, con Good Times qui al Soundcheck di Radio 24, in questa puntata dedicata alla disco, per la presenza di Andrea Angeli Bufalini e Giovanni Savastano, lo ripeto, che hanno scritto La Disco, storia illustrata della disco music, libro che ci propone anche del gossip legato al periodo, legato agli artisti. Però una cosa importante è che era un periodo divertente anche per l'abbigliamento che veniva utilizzato da chi frequentava le discoteche di allora. Come è cambiato il gusto di chi va a ballare oggi rispetto a quello della nostra generazione? Ma guarda, come hai detto giustamente te, praticamente la disco non era solo appunto una corrente musicale, ma era proprio uno stile di vita. Non a caso lo Studio 54, che è la discoteca per antonomasia, che negli anni 70 praticamente era proprio il gota di tutti i musicisti, della gente comune, degli artisti, dei produttori, insomma era diventato proprio un tempio del glamour, veniva definito proprio il maquillage della musica da ballo. C'era l'antagonista, il Paradise Garage di Larry Levan, DJ nero, gay, con una storia molto controversa alle spalle, che invece appunto aveva una clientela molto più tra virgolette modesta, nel senso aveva la gente comune. Quindi se uno era il maquillage della disco, l'altro, il Paradise Garage, era l'anima, perché appunto non dimentichiamoci che l'anima della disco è assolutamente nera ed è un'anima che privilegia le differenze sia di etnia sia di appunto di diversificazioni di orientamento sessuale e anche di ceti sociali. E gli Chic in questo incarnano molto bene la summa della disco per più di un motivo. Io avevo anche una domanda precisa, perché c'è nel desiderio di questo volume molto corposo di sdoganare un po' l'idea che sia appunto sia un fenomeno circoscritto sia un fenomeno minore della musica. Io volevo chiedervi perché poi è stata percepita invece come un genere un po' troppo sottovalutato, se vogliamo. Forse la svolta commerciale degli anni successivi l'ha resa, come dire, dico minore per dire un po' una visione più radical chic della cosa, che l'ha sottovalutata. Sì, la radice della disco era molto underground all'inizio, stiamo parlando anche dei primissimi anni 70, e la matrice nera viene proprio da, per esempio negli Stati Uniti, da la Motown, dal Philly Sound, dalla Stax, eccetera. E, quindi la radice principale è quella lì. Però quando c'è stato il fenomeno, diciamo, della febbre del sabato sera nel 77 con i Bee Gees, i quali non stavano facendo per la prima volta disco music, ma già nei due LP precedenti avevano fatto musica nera che confinava con la disco music, quindi funky, soul, rhythm and blues e disco. Quel periodo lì però ha creato, diciamo, uno spartiacque, perché da quel momento il successo è stato talmente grande che sembrava per la maggior parte dell'opinione pubblica che la disco fosse nata in quel momento lì. Invece non era così, quindi lì è stata un po' annacquata anche da quel tipo di successo e si sono perse completamente le radici underground di prima, ma non perché nella musica non ci fossero, ma perché non venivano divulgate anche a livello dei mass media, dei mezzi stampa. Cioè soprattutto qui in Italia arrivavano delle notizie di seconda o terza mano e non si andava a ricercare un po' le origini poi dei vari artisti, no? Quindi per esempio i Bee Gees non avevano scritto quei brani per quel film, ma li stavano già incidendo per conto proprio, quindi poi il montaggio è stato successivo, sono stati riarrangiati anche in un altro modo, però comunque la matrice di quei brani era nel loro amore, nella loro passione per la musica nera, che già si stava verificando negli anni precedenti. Allora, sempre nel 1979, un'altra produzione, Nile Rodgers e Bernard Edwards, due geni assoluti della black music, che tra l'altro l'approccio ritmico della chitarra suonata da Nile Rodgers ha fatto scuola. Ecco, un elemento musicale. Edwards ha pure fatto, ha segnato proprio assolutamente nella musica, nell'hip hop, no? Viene ancora campionato. Assolutamente sì, quindi una ritmica formidabile. Ecco, un elemento proprio musicale, la presenza del groove, dei sincronismi fra basso e chitarra, e naturalmente la batteria con questo andamento in quattro. Sister Sledge, il nome di questa band prodotta sempre da Nile Rodgers e Bernard Edwards, il brano un grande successo del 79, Is the Greatest Dancer, è il più grande ballerino. Soundcheck, il suono della musica. Un'altra produzione targata Quincy Jones, dopo aver realizzato il grande successo con Off the Wall per Michael Jackson, ecco qui che Quincy Jones sforna i fratelli Johnson, George e Louis Johnson, anche qui chitarra e basso, per un grandissimo successo intitolato Stomp, e qui stiamo al 1980. Grande successo anche questo per i Brothers Johnson, e stiamo sempre parlando del versante bianco della disco music, ma qui insomma si sente la natura solo, il background funk e R&B tipico di questi artisti. Quindi c'era una disco bianca e una disco fatta da musicisti di colore. Esattamente, e, tra l'altro, ritornando un attimo agli Chic, appunto dicevamo sono il gruppo fondamentale per la disco music, perché loro praticamente piacevano a tutti, sia ai bianchi che ai neri, come un po' Donna Summer, che era è stata proprio l'emblema della disco music, la regina della disco music, ma in realtà aveva una doppia anima, aveva un'anima, sì, molto soul, ma anche cantante molto soul, elettronica. Naturalmente cantante di colore, che però realizzava una disco fatta da un uomo bianco come Giorgio Moroder. Esattamente, però la matrice italianissimo come Giorgio Moroder di Ortisei, quindi Val Gardena. Però non ci dimentichiamo che i primi dischi, fino perlomeno a Bad Girls, fino al 79, di Donna Summer erano molto neri, tant'è vero che spopolavano anche nelle classifiche black. E poi Donna Summer è stata la prima artista di colore ad avere addirittura un numero uno in America con un album dal vivo, quindi è lì che la voce poi ha preso il sopravvento addirittura sulla musica, che è tutto dire. Però ritornando un attimo agli Chic, volevo dirti a te, Gege, soprattutto, a parte questi grandi successi, le Freak Good Times, che sono pezzi fantastici che ancora oggi, di cui ancora oggi insomma godiamo il suono e il ritmo, però per esempio proprio nell'80, contemporaneamente a Stomp dei prodotto da Quincy Jones, loro hanno fatto un album completamente diverso rispetto al precedente successo, cioè loro hanno allargato i loro orizzonti musicali, o perlomeno sono ritornati alle loro radici jazz. Quindi hanno fatto un album, Real People, che non ha venduto nulla rispetto all'album dei Good Times, con un pezzo di apertura, Open Up, che ti invito ad ascoltare, perché mi piacerebbe poi sapere un tuo parere, che secondo me è un po' la summa tra disco, funky, jazz, un pezzo strumentale assolutamente da recuperare, e se fosse stato un singolo avrebbe riscritto la storia degli Chic, che invece in quella fase erano un po' in una parte discendente. Comunque la disco non era soltanto la musica che veniva ballata nelle discoteche, nei locali di allora, ma era anche il genere che faceva la discografia. I dischi si vendevano soprattutto nel reparto disco music. Sì, c'era una vendita stratosferica nel Disco Forum di Billboard, uno dei primi che venne fatto nel 77. I discografici cominciarono a riunirsi tra loro e negli anni videro che la disco, in un anno che era il 78 se non sbaglio, aveva venduto da sola solo più di 8 miliardi di copie. Quindi la discografia, 8 miliardi di dischi disco music, quindi la discografia si stava sconvolgendo di questa nuova entrata nella musica, che era abbastanza crossover, dicevano gli americani, che questa cosa non veniva vista sempre positivamente dai fans. Tra l'altro Nile Rodgers, ma Bernardino, dai discografici sì. Dai discografici sì, perché comunque era un affare colossale da quel punto di vista. Questo poi tentativo, no, di riappropriarsi della disco ha contaminato un po' tutti. Lo stesso James Brown, no, che dice ma che c'entra James Brown con la disco? C'entra come precursore. Funky President. Esatto, come Funky President, ma addirittura ha fatto un album proprio completamente di disco, e si chiamava The Original Disco Man, che non ha venduto una copia. Certo. E lui che ha fatto nel 79 dice scusate, ma io sono il padrino del funk, del soul e di tutta la musica nera, ma non della disco, adesso me ne riapproprio. Perché, mio caro, bisogna sempre essere credibili. Esatto. E credibile era Diana Ross, che con l'album Diana spopolò, e qui siamo al 1980, I'm Coming Out. Soundcheck, il suono della musica. Mm. Ebbè, ma Patrice Rushen, formidabile musicista, pianista, cantante, non ebbe mai il successo di Diana Ross. Tra l'altro continua a fare concerti, a essere richiesta in varie produzioni, protagonista anche lei di questa puntata dedicata alla disco. E questa è una produzione del 1982, Patrice Rushen era giovanissima, il brano era Forget Me Nots. E siamo quasi ai saluti con Andrea Angeli Bufalini e Giovanni Savastano, che hanno scritto questo librone arancione intitolato La Disco, storia illustrata della disco music, ma sono pronti a sfornare qualcosa di nuovo. Che cos'è il secondo capitolo? Il secondo volume, dove saranno inseriti tutti gli artisti che non hanno trovato spazio qui, perché già sono 400 pagine, se no diventava una cosa improponibile. E qui abbiamo parlato delle star, delle superstar e dell'impatto sociale. Nel prossimo volume dovrebbero esserci tutte le meteore e tutti i precursori, anche quindi quei generi di cui parlavamo prima, dal Philly Sound alla Motown Disco. E poi un grosso capitolo anche sull'Italo Disco, la disco music all'italiana, perché quello è un fenomeno che poi ha avuto un eco mondiale. Ecco, Andrea, quindi che cosa è rimasto nella musica di oggi? Quali sono i protagonisti del sound black, ma insomma quella che potrebbe essere la disco music contemporanea? Infatti nel secondo volume ci sarà anche una carrellata del passaggio dalla disco, quindi dagli anni 70 fino ai giorni nostri, quindi Bruno Mars, Daft Punk mm-hmm. che incarnano un po' appunto questa doppia anima della disco, cioè la parte elettronica, la parte robotica con la parte soul, quindi Pharrell Williams e tutta una serie di, e lo stesso Nile Rodgers con la sua chitarra inconfondibile che ha, diciamo, fatto da trade union tra tutti i generi musicali, passando anche per quel genere fantastico che è stato l'easy jazz dei primi anni 90, che parte da Londra, da cui appunto Patrice Rushen ha preso, cioè è stata una delle ispiratrici per gli Incognito, certo, per Brand New Avis, sì, per tutta la Talking Loud, l'easy jazz movement, che è stato un movimento esplosivo che però appunto ha attinto tantissimo dalla disco music. Allora, io vi ringrazio per la partecipazione, grazie ad Andrea Angeli Bufalini e a Giovanni Savastano, grazie che a te. Oltre ad essere un appassionato di musica fa poi un lavoro, non voglio dire più serio, però fai un altro lavoro. Tu sei docente anche di storia e filosofia. Sì, no? E psicoterapeuta, diciamo che non è più serio, è folle come l'altro, diciamo. Sono tutte e due pazzi. Allora Silvia, grazie anche a te, ti sei divertita? Moltissimo, abbiamo riabilitato un po' un genere, sono contenta, i nostri ascoltatori anche hanno dei riferimenti a cui poter attingere nel corso dei prossimi giorni, sì. Ne abbiamo date di notizie. Allora, in attesa del secondo volume che si intitolerà La Disco 2, La Vendetta? Sì. Potrebbe essere un'idea. Senti, ma ne dovete fare un formato un po' più comodo, perché questo a letto non lo puoi leggere perché pesa troppo, ti sloghi i polsi. Facciamo un formato con un leggio incluso, diciamo. Va bene. Oh, però non voglio... sarà sempre così appariscente, fluorescente come la disco, e luccicante come la disco. Bene, non voglio dimenticare che il libro è pubblicato dalla Arcana. Okay. E allora ci salutiamo. Chi ha detto Pharrell Williams? Hai detto te. Allora ti faccio ascoltare Pharrell Williams con il successo Happy, ma nella versione di questo signore che si chiama Ahmed Sirour, producer della nuova generazione, from New York, da Brooklyn esattamente, e questa è la sua versione Solar Powered Remix di Happy. A tutti voi buona serata, ci risentiamo domani 19:15 sempre qui su Radio 24 con il Soundcheck, la prova del suono. Buonasera a tutti da Giorgio Telesco.